fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera, noi siamo in diretta con Risto Radio Convento. Io sono in compagnia di Jessica e Lisa. Buonasera ragazze, come va più o meno la serata? Direi molto bene. Abbastanza bene, sì. Ok, perfetto. E raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori, cosa state festeggiando stasera? Allora, le mie testimoni, esatto, e le mie amiche appunto mi hanno organizzato un super addio annubilato. Wow! E prima le terme e poi siamo arrivati qui al convento. Esatto. È stata una bella giornata intensa. Esatto, eh? Sì. Prima bella rilassante, relax, e poi bella boom, carica. È esatto, vero? Studiata. Se ci divertiamo. Esatto. L'hanno studiata proprio a pennello. Sì, esatto. E invece come si chiama la testimone? Elisa. Elisa. Allora, poiché abbiamo una testimone che è un riferimento importante per la sposa, vogliamo fare una dedica alla nostra sposa? Breve, allora, intensa. Non so da quanto tempo vi conoscete. Da 2016. Esatto, okay. Sì, abbiamo... ci siamo conosciute all'università. Ok. E quindi abbiamo coltivato l'amicizia anche dopo. E quindi... Bello, ecco. Dai, una dedica. Quello che pensi più o meno che vuoi augurare a lei per questo suo matrimonio? Ovviamente le auguro tutto il bene del mondo e che sia felice, quello sempre, a prescindere poi dal matrimonio. che le voglio un sacco di bene, basta che vuoi. Sì, basta che ci emozioniamo. Sì, esatto. Invece passiamo un'altra domanda che a me mi incuriosisce tantissimo. Come hai conosciuto lo sposo? Allora, lavoravamo insieme. Ok. Lavoravamo perché poi ho cambiato lavoro, però tutto, ecco, è partito dall'ambiente lavorativo. Lui scendeva da Riva del Garda, io lavoravo a Desenzano e con i battelli, e quindi poi, nel senso, lui arrivava in ufficio da me e lì ciao. C'è Jessica, stato il ciao, colpo Simone, di fulmine. Ecco. Wow, dai. Da quanto tempo sei fidanzata? Dal 2018. Bene, qui abbiamo anche i nostri corteggiatori, sì, fan, numero uno, spioni. Sì. Va bene ragazzi, allora io vi ringrazio per la vostra compagnia. Grazie a te. Vi lascio proseguire la serata ed è stato un piacere. Grazie mille. Grazie mille ragazzi. Ciao. Ciao.